il conte ce l'ha fatta. Ma nemmeno gli si qui poco piacere. In questo mi consola che nell'esser schernito io non fui sola. Ma quel conte pasticcio non ha da corbellar due ballerini, o almeno gli ha da costar 100 zecchini. Giudizio, basta dire con gravità. Siamo stati in quel servizio che protegge saprà. Che protegge ne saprà, sì ne saprà, sì ne saprà. Se non sa chi siamo noi, lo domandi a questo o quello, lo domandi a questo o quello, questo o quello. Vender cari i nostri passi, molinare col cervello, cavaloro in tinta ai sassi, è la nostra abilità, sì, sì. Se con noi non ha giudizio, se con noi non ha giudizio, basta dire con gravità. Siamo stati in quel servizio che proteggerne saprà. Che proteggerne saprà, sì sì ne saprà, ah sì ne saprà. Cresce, signora, e se avessi anch'io tanti denari come le vostre pari, per voi stessa e per me far io vorrei un abito a scorruccio. E perché un tal vestito? Io senza moglie e voi senza marito. Quanto a me non mi importa che ancora non son morta, e basta ben che io sulla scena appaia e piovano i mariti facenti. Ma intanto qui, finché non c'è nessuno. Cosa? Far non potrei, da protettore io stesso e da servente. Tu? Sì, signora. A me? Meglio che niente. Cheese. mi ti allontana, ti allontana, ti allontana, che io corro pericolo d'aver la terzana. Se di tu più piccolo mi arrivi a toccar, che viso grotesco, che storie d'umore, se mai ci riesco col mio protettore, davvero stai fresco, ti fu bastonar. Che viso grotesco, che storie d'umore, davvero stai fresco, ti fu bastonar. Davvero ti fu bastonar, davvero ti fu bastonar. Sono un villano, è vero, ma al fin mangio del mio, dove colei con tante sue pretese mangia, veste, sollazza all'altro ispese. Quest'altre signorine anche lì si fan vedere, anche lì si fan vedere, sì. Piene d'oro le manine, d'orivoli e tabacchiere, d'orivoli e tabacchiere, e si chiama regalore, si chiama regalore, si chiama regalare. Io non vedo differenza tra costoro e i borsaroli, e borsaroli. Quelli almeno per prudenza vanno di notte, vanno soli, vanno di notte, vanno soli, dove trovano da rubar. Ma questo le tre signorine anche il dì si fan vedere, anche il dì si fan vedere, sì. Piene d'oro le manine, d'orivoli e tabacchiere, d'orivoli e tabacchiere, e si chiama regalare, si chiama regalar, e si chiama regalar, regalar, regalar. malita contro che è mancator senza cervello, che fa con tutto il bello. Ed io ne rido, perché la moda è questa che si impara da noi. Se a tutte coppie muse le donne ancora fare le galanti. Ma tre mogli in un giorno, io non so come trattenuta mi son da bastonarlo. Si tratta poi di diventar contessa. Sì, sì, fidati pure di quella sua contea. Non me ne fido, ma pur mi piacerebbe mangiar bene, vestir meglio e andare a spasso. Per questa io te la passo, ma che t'abbia a sposar, molto ne temo. Vendichiamoci! Vendichiamoci pure! L'amante, ecco se inviene, e di Lisetta il padre. Ma per celare a lor quel che si fa, soggezione, contegno e gravità. Qual comunque piangerà. Che luna, che occa, che luna, che occa, magra ma chi tocca? Qualcun piangerà, magra ma chi tocca, magra ma chi tocca? Qualcun piangerà, sì, sì, qualcun piangerà. Con chi l'avete voi? A chi credi parlar, Conte de Matti, Marchese Leccapiatti? E non rammenti che tu meco ragioni? Parlo con miei lacchè, tutti bricconi! Lo volevo ben dire! Intendiamoci bene! Ma lasciarmi Dorina oggi conviene! Ma conviene sposar oggi mia figlia! A me non si consiglia, a me non si comanda, perché sempre da banda 2-3 mila zecchini aver io soglio per farvi... Cosa far? Quello che io voglio! Queste minacce a noi! Sai che possiamo fare? Cosa? Te il dirò fra poco, intanto... La storia è troppo lunga e tanto non s'aspetta a farne la vendetta. La farem, non temere, senza però che nasca un precipizio. Lasciati riveder, zitto e giudizio. Se più mi stuzzica quel cavalone, o strucolarlo come un limone, o macinarlo come caffè. Voglio frullarlo come frullata la cioccolata, che tutta spuma, che bolle fuma, e lascia poi la cura a me. O strucolarlo, o macinarlo, voglio frullarlo come frullata la cioccolata, e lascia poi la cura a me, e lascia poi la cura a me, e lascia la cura a me, e lascia la cura a me. Se più mi stuzzica quel cavalone, o strucollarlo come un limone, o macinarlo come il caffè, voglio frullarlo, come frullata la cioccolata, come frullata la cioccolata, che tutta spuma, che bolle fuma, e lascia poi la cura a me, e lascia poi la cura a me. Se più mi stuzzica quel cavallone, voglio struccarlo come un limone. Se più mi stuzzica quel cavallone, o macinarlo come il caffè, voglio frullarlo come frullata la cioccolata, che tutta spuma, che bolle fuma, e lascia poi la cura a me, e lascia poi la cura a me, e lascia la cura a me, la cura a me, la cura a me. Fermate un solo momento, eccomi a vostri piedi, bella Dorina. Pietà, pentito io sono. Non c'è pietà, perdono, per un vile, un ingrato, un mancatore. Levatevi di qua. Tanto furore, morirò a vostri piedi, ma levarmi di qua senza il perdono non mai crudel, non mai. E chi vi diede una tal confidenza? A me dunque così. Basta! Pazienza! Sento il cuore e mi vien meno, prego in vano, domando, guarda, dimmi, senti a meno, e piangendo e singhiozzando son vicino a delirar. Guarda, dimmi, senta meno che piangendo, singhiozzando, singhiozzando. Son vicino a delirar, a delirar, son vicino a delirar. Mia Dorina, mia Dorina. Ah, questa assassina di me non si cura, ma più te la prego, più te la prego, più te la prego, diventa più dura. Mi fa disperar, mi fa disperar, mi fa disperar, mi fa disperar. Sento il cuore che mi vien meno, prego in vano domando. Guarda, dimmi, e senti a meno. Guarda, dimmi, e senti a meno che piangendo singhiozzando sono vicino a delirar. Sento il cor che mi vien meno. Guarda, dimmi, senti a meno che piangendo singhiozzando son vicino a delirar, son vicino a delirar, son vicino a delirar. Ho saputo di più che non volevo e valermi l'ordevo per fargli far cervello a modo mio. Pensarci anch'io, perché al fitto al marito per me stessa sarebbe un buon partito. Egli è costante e vero, vuol far con tutto il vento, e a tre donne in un giorno egli ha promesso. Ma quell'uomo ci dì non fa lo stesso. Thank you. dove è andato colui? Qui per appunto, condorina, io li vidi quando venni a chiamarvi. E chissà dove ti saranno insieme. Questo è quel che mi preme, ma li vado a cercare e vi protesto. Dorina è qua, da lei sapremo il resto. Prego insieme per poco, che a tutti un gran gioco di far preparare questa notte con te. Se noi perdendo qui troppe parole, d'accordo non restiamo. Non mi tocchi, Dorina, altro io non curo. Qui ti volevo appunto, me coi lavori, e m'ha già persuasa che mi lasci davvero fuori di casa. Poter di me non faccia, lo tenti non si azzardi, io gli protesto. Ma taci un poco e ascolta prima il resto. E come mai pretende colui rapirti a forza? Io l'ingannai, fingendo mi lasciai quasi a forza sedur dal suo pensiero, per riscoprirlo a voi. Brava davvero! Non si poteva far meglio. E a noi si aspetta adesso che sull'ingannator cada l'inganno. E noi cosa faremo per beffarci di lui? Ci penseremo. Orsù ci siamo intesi. Il cielo scura e buonanotte, amico. Ma pur che anch'io farò più che non dico. Se non erro già vien cheto e pensoso quel pazzo glorioso, oggi fece impazzir la villa tutta, e per fargli paura, mentre pretende a noi farla sì bella, su quel tronco mi metto in sentinella. L'ora è adesso opportuna, raggio non c'è di luna. Stelle, son morto! Chissà se il medico mi guarirà. Signor Conte, allegramente, allegramente, e col medico francese d'un chirurgo assai valente, che vi ponno risanar, che vi ponno risanar. Sono qui per accidente, sono qui per accidente, e domani a suo paese, senza fallo andà a tornar, senza fallo andà a tornar. Più di loro si parlerà Monsieur,